24 mattino. È scomparso il contatto video che mi lega al grande Oscar Giannino, ma ho appena fatto in tempo a vederlo, come una visione color prugna, con eleganza da lord inglese, e qui il re dei cani e dei gatti. Eccomi qua, fratello. Questo continua a dire call fail. Ma una roba da matto. La chiamata, che vuol dire? Non mi risponde. Però vedi, ti posso immaginare. È un amore non corrisposto. È un po' questo video che ci separa come la siepe dell'infinito e i leopardi. Posso immaginare un Giannino epico al di là di questa barriera tecnologica. Ma secondo me, guarda, io la faccio in realtà un pochino più bassa. Io come Spelacchio sono destinato a morire. Oddio mio, non lo dire neanche per scherzo. Però che triste parabola. Mario Aiello sul Messaggero è riuscito a parlarne, secondo me, con il giusto tono, tra il sapido e però anche dando l'idea, ma è possibile che anche sull'albero di Natale Roma riesce a fare una cosa così, e secondo me ha trovato il giusto modo. Mario mi ha fatto sorridere e contemporaneamente pensare, perché comunque è vero che è una storia che in sé ce ne siamo già occupati, come sanno i nostri ascoltatori. Aggiunge una piccola cosa di Roma, ecco, perché è coerente, purtroppo, no? Ti volevo chiedere di questa vicenda di cui parla il Mario Senzini sul Corriere, se secondo te può funzionare questa logica del premio, diciamo così, economico cancellato a tutti i colleghi del presunto, del possibile o del reale fannullone. Ti dirò che io ho i miei dubbi, perché essendo un accanito collezionista di notizie statistiche che rilevino l'assenteismo, i furbetti della 104. Scusa un attimo, io 800 24 00 24 per chiamare, ovviamente. Vai. Certo, e 349-238-6666 per gli sms. Però pur essendo un accanito, diciamo, collezionista di dati su questa materia qua, ho dei dubbi, perché io credo che queste responsabilità siano rigorosamente individuali e non credo molto nella leva che spinge, per così dire, i comportamenti collettivi a dire adesso dovete voi essere gli occhiuti controllori. Il controllore è il dirigente. Esatto, perché se io ti denuncio non vuol dire che il dirigente mi darà retta, che l'amministrazione... Capito, quindi è il dirigente. Allora, il dirigente, che come ieri ci ha spiegato in quelle due meravigliose pagine di Affari e Finanza che hanno sintetizzato il primo contributo dell'osservatorio spesa pubblica dell'ex commissario a spendere VU Contarelli, i dirigenti che noi strapaghiamo, non la pubblica amministrazione, è inutile che dicano di no, nella comparazione con gli altri grandi paesi europei si vede quanto li paghiamo di più. Ecco, io penso che i dirigenti dovrebbero essere la leva su cui incardinare il controllo su queste cose, come giudizio di merito, a cominciare da loro, dei dirigenti, i cui premi invece il salario di merito spalmiamo tutti uguali. Ecco, quindi per questo non mi convince molto il comportamento collettivo, come dire allora se ce la sentiste e voi colleghi tenete gli occhi chiusi, allora ci rimettete tutti. Per carità, è un'opinione, ma non mi pare la via più giusta. La mia idea sarebbe, caro dirigente, se nella tua unità di sottoposti c'è una percentuale fuori linea, alla fine tu salti, ma proprio salti, cioè salta l'incarico. Io sono per gli incarichi a tempo per i dirigenti, io per farei quella strada lì. Allora, prima testimonianza al telefono con noi Maurizio Gasparri di Forza Italia, e suo il toccante editoriale sul Tempo racconta la mia ultima telefonata ad Altero Matteoli poco prima che morisse. E è un fatto anche politico questa morte, perché è legato a una strada che Matteoli voleva trasformare in autostrada e su cui già aveva avuto un incidente. Buongiorno Gasparri. Buongiorno Telese. Ma che è successo ieri mattina? Altero si è camminato da solo con la sua macchina su questa via. Proprio ieri mattina ci eravamo sentiti poco prima che partisse per andare a preparare la campagna elettorale. C'è anche, veda, quelli che poi fanno gli odiatori in rete. Però anche capire che uno come Matteoli, che in fondo insomma ha un ruolo politico importante, poteva anche non dovere sbattersi a destra e a sinistra in vista della scadenza elettorale, nella quale avrebbe avuto certamente la collocazione adeguata alla sua storia, al suo peso, e poi probabilmente girando da solo, chi lo sa, l'affaticamento, la distrazione, questo lo capiremo dagli accertamenti che ovviamente sono in corso. Quello che viene a mancare con Matteoli, che ha seguito molto anche le vicende di una Alleanza comunità Nazionale politica di cui è stato un riferimento, e anche una capacità di sintesi, di mediazione, una politica che spesso, come tutta la società, si frammenta, si divide. Altero è stato da sempre, in particolare anche in questi anni, uomo della sintesi, uomo dell'intesa, e insieme a pochi altri ha sempre lavorato in questa direzione, quindi è anche una perdita che colpisce tutto il mondo politico, perché è riuscito a farsi apprezzare e stimare. Pensi che a metà legislatura si sono rielette le commissioni parlamentari, come è normale che sia. Lui è stato l'unico dello schieramento di centrodestra in minoranza a essere eletto, perché anche molti esponenti della sinistra hanno ritenuto che la sua presidenza di commissione fosse la più adeguata per l'esperienza, la conoscenza dei temi. Quindi ha avuto anche tanti riconoscimenti di chi non era della sua parte politica. L'hanno disturbata i messaggi degli odiatori, tantissimi, che hanno approfittato per inneggiare alla morte, il solito corteo sciocco, no, dei social. Infatti, io credo che, diciamo, in queste occasioni poi si dovrebbe riflettere che chi può essere individuato, ce ne sono che se possono indicare andrebbero almeno chiamati a pagare le conseguenze di ordine penale, che poi si parla tanto della rete. Però guardi, vorrei soprattutto in questo momento mettere in luce invece i tanti riconoscimenti di chi l'ha conosciuto, di chi l'ha stimato, si è visto ieri già nello shock, perché ovviamente è stato un evento, un incidente di quelli imprevisti, non c'erano malattie o... Com'è stata, diciamo, quell'ultima telefonata? Ma guardi, una delle solite che si facciamo tra di noi, un po' addetti ai lavori ma anche amici, quindi analizzando le vicende, le regionali, le politiche, le varie come dire, occasioni, i punti di debolezza, un'analisi oggettiva e pacata della situazione da parte di chi come lui, ma insomma un po' tutti noi, conosciamo vita, morte e miracoli delle situazioni, quindi con alcuni punti interrogativi, con alcune cose di cui avremmo parlato mercoledì, perché appunto me l'ha detto Ario, sto in Toscana oggi e domani per avviare un po' l'organizzazione della campagna elettorale, torno mercoledì, tant'è che anche questa sera da vederci, ma aveva detto che questo impegno non glielo consentiva. Quindi una telefonata di quelle di routine, ma ricca di considerazioni, perché poi, come dire, ci sono quelli che a un certo punto devono trovare delle soluzioni alle matasse ingarbugliate. Ecco, Altero era uno che da questo punto di vista svolgeva da sempre, prima nell'Alleanza Nazionale, poi nel centrodestra e poi in Forza Italia, non a caso questo... prendeva un tavolo delicato. Era uno che sbrogliava le matasse. Questo non fa... Gli sbrogliatori di matasse è un bel epitaffio. Eh sì, guardi, perché poi di gente che le aggroviglia il mondo è pieno, di gente che le dipana invece ce n'è bisogno. Altero era uno di questi, in senso generale direi, e anche alcune amarezze recenti non avevano modificato la sua forte reputazione. C'erano state delle vicende anche, diciamo, di giustizia che avevano molto amareggiato, e non è cambiato il giudizio su di lui. Nessuno ha chiesto che dovesse lasciare degli incarichi, perché la reputazione, come dicevo ieri ad alcuni amici, conta più di una sentenza ingiusta. Grazie a Maurizio Gasparri, era un ricordo che andava fatto oggi, ripeto, un fatto di cronaca che si incrocia con la politica. Oscar, io di nuovo cito la vicenda di Borsellino e l'apertura di Filomena, di Imprese e Territori oggi sul Sole con il pezzo di Filomena Greco, è una notizia che rimbalza di qua e di là, scusate la tosse, è veramente incredibile, no? Sono delle eccellenze italiane a rischio, in questo caso pur facendo fatturato per una complessa eredità, l'eredità del passato, l'eredità dei debiti, il fallimento in continuità. Beh sì, ma però sono 20 anni di storia, cioè la Borsellino ha sempre legato il proprio nome negli ultimi 2 decenni a una vicenda che addirittura si studiava all'università, si studiava all'università proprio come... Oimè, sintesi di quello che hai detto, cioè ci sono grandi possibilità aperte nel mondo per brand e marchi italiani, e ci sono vicende intricate di artifici finanziari, ecco, chiamiamolo così, attraverso i quali diminuire il capitale necessario, perché sono imprese che avrebbero bisogno di un maggior capitale per mettere in piedi le reti di distribuzione commerciale, di proiezione che quei brand chiamano, necessitano. È il motivo per cui molti brand della moda italiana, per esempio, sono finiti nei grandi due gruppi verticali della moda internazionale francese, perché quei gruppi danno esattamente questa forza finanziaria che, come si vede anche nel caso del Borsellino, figure discutibili di imprenditori finanziari italiani in 20 anni non sono mai riusciti ad assicurare. E quindi il motivo per cui si arriva poi alla decisione del giudice è un motivo che apparentemente, e lo capisco, ai dipendenti, ai collaboratori, ai sindacati dell'azienda appare incomprensibile, perché dice: noi abbiamo ordine e lavoriamo, sì, ma in realtà gli schermi societari sono l'esiguità del capitale, il giudice non può far finta di non vederli. E con amarezza, certo, che la vicenda è un pezzo della storia dei fallimenti che italiani incassa ricavi per 17 milioni di euro. Ho capito. È una follia fallire così. Eh? È una follia fallire così, ma però non ho minimizzato nel dire che la cassa è un conto e il capitale della società è un altro, e gli obblighi a cui ottemperare senza far ricorso a società schermo con cui li diluisci, puoi avere la cassa ma non pagare i debiti. Capisci che non è comunque una cosa che può andare avanti, perché poi clienti e fornitori dicono la cassa ce l'hai, pagami, e così via. Quindi è una storia lunga, è una storia che ha sempre riproposto questo, che è uno dei difetti, ha tanti pregi il capitalismo italiano dei piccoli imprenditori, ma questo è sicuramente un difetto. Allora, messaggio del nostro interattore Valdimiro: non piango Matteoli come non piangerò Gasparri e mille altri politici. Allora, quello che abbiamo detto prima è che tu hai il diritto di non piangere chi vuoi, non hai, nessuno di noi ha il diritto di insultare, ingiuriare da morte una persona che, diciamo, non si sia macchiato di reati capitali, che non abbia commissionato olocausti, che non abbia commesso dei reati contro la pubblica amministrazione o contro le persone. Questa è la mia opinione, poi ognuno è libero di avere la propria. Buongiorno Piero Fassino. Buongiorno. Allora, gira l'Italia con il suo libro, che abbiamo anche presentato qui, ma che continua a essere di attualità, perché è ovviamente animato da passione, e anche perché è stato il missionario, l'inviato, l'ufficiale delegato a trattare per il Partito Democratico le alleanze in questa fase molto delicata. Infatti il suo nome è nelle cronache del Corriere della Sera anche oggi, e forse la prima domanda che possiamo fargli prima di parlare, diciamo, della sua battaglia politica è sullo Ius Soli. Qualcuno dice che c'è ancora uno spiraglio, lei è l'uomo che ha trattato, secondo lei c'è questa possibilità che possa essere votato? Ma sono una possibilità ovviamente molto esigua per due ragioni. La prima è che il calendario parlamentare è molto stretto e il Senato deve in ogni caso, prima di passare ad altri provvedimenti, approvare il bilancio che gli verrà dalla Camera, perché ovviamente questa è una priorità assoluta, non si può non dotare lo Stato italiano del bilancio. E questo credo impegnerà il Senato negli ultimi giorni di questa settimana, visto che adesso è nella fase finale di esame alla Camera. E la seconda, il secondo tema è se c'è una maggioranza sufficiente. Fino a qualche settimana fa non appariva esserci. Si tratta di capire se il lavoro che è stato fatto da parte del gruppo del PD al Senato ha acquisito maggiori consensi e se ci sono le condizioni. Quindi è chiaro che dal punto di vista della volontà politica, la volontà politica del PD è inequivoca. Noi pensiamo che lo Ius Soli sia una legge giusta, ma dico di più, non sia un provvedimento di parte. Dare la cittadinanza a 800.000 bambini che nascono in Italia da genitori stranieri regolarmente residenti in Italia da molti anni è un atto di civiltà, non è una bandiera di parte. Si tratta di capire se ci sono le condizioni per farlo. Quindi in questo momento, se dovesse proprio definire in una parola sintetica, difficile o improbabile? È difficile, e si tratta di capire se c'è ancora qualche spazio, in ogni caso se c'è va percorso. Mattino. Rieccoci, Cani e Gatti, Radio 24, Luca Telese e Oscar Giannino, con noi Piero Fassino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, 800-24-0024. Non dimenticatevi la nostra segreteria, che è sempre importante per le vostre meditazioni più profonde, 30-02-30-22-4492. Senta Fassino, ha visto che la stampa oggi apre con un retroscena riferito ai 5 Stelle, in cui il partito di Di Maio sarebbe disposto a un'alleanza post-elettorale in Parlamento con voi, con il Partito Democratico, purché non ci sia Renzi? Che impressione le ha fatto questa lettura? Non ho ancora visto i quotidiani, quindi è l'apertura. Apprendo la notizia da lei. Titolo a 5 colonne. Guardi, io credo che non valga la pena di correre dietro a ricostruzioni fantasiose di ciò che dovrà avvenire. E noi siamo l'unico paese al mondo nel quale, anziché, diciamo, affidare agli elettori la formazione del governo, si pretende in ogni caso di decidere prima che gli elettori votino che governo si farà. che come non si farà lo decideranno gli elettori, lasciamogli che gli elettori votino e facciamo la campagna elettorale sulle cose che interessano agli elettori, cioè che politica per il lavoro, per le tasse, per il futuro dei figli, per la sanità, per le imprese, perché... Ma se non ci fosse una maggioranza, questo è ovvio. Che governo forse si farà. Però, siccome tutti i sondaggi parlano di una difficoltà di avere una maggioranza, lei sarebbe, come dire, più propenso a un accordo con Forza Italia o uno con i 5 Stelle? Ma guardi, ripeto, è un interrogativo che a priori non ha senso, perché non è una scelta ideologica quella di fare un'alleanza. Le alleanze si fanno sulla base di convergenze programmatiche e anche di stati di necessità. Guardi la Germania, si è partiti dopo le elezioni dicendo l'esito elettorale dà come esito un governo formato da liberali, verdi e democristiani, poi le trattative si sono arenate, adesso ci sono socialdemocratici e democristiani che stanno negoziando la possibilità di fare una larga coalizione, quindi non è una scelta a priori la formazione di un governo, cioè un governo è la conseguenza dei risultati elettorali, di convergenze programmatiche e anche delle condizioni concrete dello scenario. Certo, però uno può avere una preferenza. Ma guardi, cosa vuole che abbia delle preferenze? Sono due partiti che, in cui io non mi riconosco, io mi riconosco nel Partito Democratico, quindi non è che ho delle preferenze a priori ideologiche verso 5 Stelle o verso Forza Italia. Diciamo, non sono d'accordo per esempio con Di Maio quando dice che bisogna portare l'Italia fuori dall'Unione Europea e fuori dall'Euro, no? Perché se viene a un tavolo Di Maio con questa proposta ci alziamo subito, non c'è ragione di discutere, no? Così come se Berlusconi viene con proposte che sono, diciamo, inconciliabili con le nostre visioni, anche lì è difficile. Quindi il problema non è stabilirlo a priori, è un problema di simpatie, non ci sono simpatie, certo, in modo programmatico, capito. C'è una convergenza sulle cose. Senta, Fassino, una domanda all'ex ministro degli esteri e poi nel libro, secondo me giustamente, mi è piaciuto il libro, l'ho già detto quando ne abbiamo parlato, le considerazioni sull'Europa sono importanti e io condivido. Per questo chiedo all'ex ministro degli esteri, abbiamo visto il governo che è appena nato in Austria, mi sente? Ci sente? Adesso sì, è andata via la voce. Scusi. Allora, ha visto il governo che è appena nato in Austria e le chiedo, come dovrebbe reagire secondo lei l'Italia a questa idea che sembra buttata sul tavolo, ma è quella di dire bene, siamo pronti subito con il doppio passaporto agli italiani in Alto Adige, perché i vostri atleti non gareggiano con la nostra maglia dell'Austria? L'idea sembra per il momento quella di tenere sottotono, dice vabbè una butade, però di butade in butade, lei che dice? Dico che è una proposta diciamo pericolosa, è già stata adottata in Europa. L'Ungheria, il governo Orban ha esteso cittadinanza e i diritti anche alle minoranze, ai cittadini di origine ungherese che in altri paesi dell'Europa centrale, specialmente la Romania, la Slovacchia, la Voivodina serba. Dietro queste proposte si cela, come dire, non detto uno spirito irredentista molto pericoloso. Io non credo che nell'Europa di oggi il problema sia diciamo contrapporre nuove cittadinanze, erigere nuove frontiere, aprire nuovi, diciamo, cioè è d'accordo nuovi che l'intenzione non dichiarata ma è quella di rinfocolare uno scontro etnico tra le nazionalità europee. Siccome non faccio processi alle intenzioni, non so qual è l'intenzione, so qual è la conseguenza. È evidente che una proposta di questo genere rischia di rinfocolare i redentismi. Ora, mi pare che se c'è un luogo in Europa dove si è costruito, sia sul piano legislativo, sia sul piano politico e sociale, una convivenza che viene invocata spesso come esemplare, è l'Alto Adige. Tanto è vero che ogni qualvolta c'è un problema di tutela delle minoranze in altri paesi, lo si assume come modello. Io ricordo, quando ero al governo, di essermi occupato molto di Europa centrale, di Balcani, dove ogni paese è caratterizzato dalla compresenza di molte minoranze, e sempre nella discussione e dibattito di quel tempo, io ricordo, veniva invocato l'Alto Adige come un modello positivo. Quindi non credo che ci si debba mettere sulla strada di alterarlo. Ieri l'intervista al Corriere della Sera di Renzi in cui, rispondendo ai sondaggi di Pagnoncelli pubblicati dallo stesso giornale, il leader del PD ha detto: abbiamo perso 6 punti, è vero, perché paghiamo un prezzo per il governo. Lei, che sta girando tutta l'Italia con la presentazione PD Davvero, nelle sezioni, nel dialogo con i militanti, che impressione ha sullo stato del partito? Ma direi che c'è una differenza tra, diciamo, quello che è una disaffezione che noi abbiamo avuto in un pezzo di elettorato che dalla sconfitta del referendum ad oggi registriamo nei sondaggi, e quello che è lo stato del partito, che invece è un partito che è motivato e si batte perché, diciamo, la sua politica venga riconosciuta. Non c'è dubbio che stare al governo in questi anni di crisi è una posizione, diciamo, in cui paghi prezzo, perché la crisi ha prodotto lacerazioni sociali, ferite, c'è una frattura che ha attraversato, diciamo, tutte le società occidentali, una frattura tra coloro che sono inclusi, cioè coloro che nella crisi l'hanno vissuta ma non hanno visto alterate sostanzialmente le loro condizioni di vita e di lavoro, e coloro che invece si sentono esclusi perché la loro vita è stata investita da forme di precarietà o nel lavoro, nel reddito, nel futuro dei figli. E questa frattura tra inclusi e esclusi produce ovviamente in chi si sente escluso un sentimento di solitudine, di estraneità, un sentimento di un malessere profondo che si scarica evidentemente prima di tutto verso chi governa, perché se io mi sento escluso, in primo luogo me la prendo con chi governa perché penso che sia responsabile della mia esclusione, ed è tutto evidente. Guardi, mi ha colpito molto Trump quando ha ringraziato la sera della vittoria elettorale, diciamo, gli elettori, e non ha fatto il ringraziamento classico agli attivisti, agli elettori, la stima all'avversario politico, il ringraziamento alla famiglia, non ha fatto niente di tutto questo. Trump ha ringraziato una sola persona, il forgotten man, l'uomo dimenticato. È significativo, ed è quella la base, no, su cui sono cresciuti i movimenti populisti, una vittoria della destra e una difficoltà della sinistra che si registra non solo in Italia, ma in Germania, in Austria, in Olanda, in Francia. Allora, io credo che questo sia il tema: la crisi sociale ha prodotto ferite che hanno inciso, incidono di più nel corpo vivo nostro, sia perché il corpo vivo nostro è costituito da ceti popolari che sono più esposti a quelle ferite, e sia perché laddove abbiamo responsabilità di governo, essere al governo ti porta a essere considerato responsabile di quelle ferite. Allora, grazie Fassino. L'ultima domanda telegrafica: Gianni Cooper, l'ho interrogato sulla possibilità di finire nello stesso collegio con Bersani, ha risposto con una grande battuta, no, di eleganza e di ironia, ha detto no, perché se corressi contro Bersani nello stesso collegio poi alla fine lo voterei. Lei correrebbe contro Bersani nello stesso collegio? Ma guardi, io penso che l'avversario nostro non sia Bersani, non sia MDP, da loro ci dividono evidentemente molto cose, ma l'avversario nostro siano Di Maio, Salvini e Berlusconi. Ho capito, ma non è una risposta a quella domanda però. Cooper lo ha risposto alla sua maniera. Lei cosa farebbe se il partito glielo chiedesse? Non penso che bisogna caratterizzare la campagna elettorale con uno scontro tra PD e MDP, o Liberi Uguali, ma che i nostri avversari siano altri, e quindi anche nella scelta delle candidature bisogna che le collocazioni vengano teniamo conto di questo. Quindi non lo farebbe neanche lei? Secondo me tenere conto di questo impianto. Non lo farebbe neanche lei, quindi, lo scontro fra tifosi del nostro stesso collegio? Sarebbe utile una... Per voi sarebbe la manna, no? Certo, tutti i giorni il titolo su, punto, Fassino contro Bersani. Certo. Il risultato sarebbe che noi offuschiamo agli elettori il fatto che il nostro avversario è il vero rischio, e che l'Italia cada in mano o di una destra prigioniera dell'estremismo di Salvini o del populismo di 5 Stelle. Grazie, buongiorno. Il libro di Fassino, PD Davvero. Oscar. Allora, oggi la giornata ha un appuntamento fondamentale, perché c'è Visco alla commissione parlamentare, e la cosa da sottolineare è che, poiché, come è evidente, non ha tenuto fino a questo momento la strategia che mirava al fatto che in commissione non uscissero, tra virgolette, molte cose che non sapevamo, si vedono sui giornali oggi le mani avanti poste, perché per esempio sulla Stampa si trova mano avanti del segretario del PD Renzi, che dice: ho incontrato Visco, è stato lui a parlarmi di Etruria, in maniera tale che non sia per i giornalisti oggi, per noi tutti, una sorpresa apprendere da Visco che aveva incontrato più volte il Presidente del Consiglio. Del resto il Presidente del Consiglio mi sembra che avesse pieno mandato, per così dire, rientrava nelle sue competenze. Dall'altro, sugli altri giornali però vengono rincontrati più incontri con Panetta, il vice direttore generale della Banca d'Italia, con Maria Elena Boschi, la quale, dopo aver detto a De Bortoli che non se n'era interessato, continuiamo ad apprendere che se ne interessava invece moltissimo. Ed è all'indomani della battuta di Padoan, esatto, ed è all'indomani della battuta di Padoan che ha sorpreso molti, ma che insomma era una staffilata. Io non ho autorizzato ministri a parlare con nessuno, ripeto, non sto parlando del Presidente del Consiglio. Ho letto in rassegna e risponde anche Del Rio, che aveva avuto quel colloquio con... Sì. La banca dell'Emilia Romagna risponde, no? Anche Del Rio seccato. E un'altra seccato. Cosa sui giornali e la stampa in questo va più avanti di tutti, perché la stampa addirittura non solo lancia, come hai chiesto a Fassino, l'ipotesi della disponibilità a 5 Stelle per un governo col PD senza Renzi, derenzizzato, ma addirittura formula le due ipotesi per la leadership del PD dopo Renzi. Il titolo è: sarà derby tra Minniti e Del Rio. Cioè, sì, fra l'altro è un giornalista molto attento, Fabio, esatto, Martini, alle cose politiche. Sì, lo conosciamo tutti da molti anni, non è uno che lancia, no, per non così è uno dire di quelli fantasiosi come me. Quindi la giornata politica insomma inizia bene, per così dire, cari ascoltatori. Vedremo. Mattino. Buongiorno, i cani e gatti qui in attesa del prossimo ospite. Oscar Giannino ha fatto una radiografia perfetta di quello che ci aspetta nella giornata. Alessandra Mussolini, eurodeputata di Forza Italia, ma qui per un'altra storia. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Sono rimasto... Permettetemi, sì, di fare all'inizio proprio di trasmissione, sì, un abbraccio e un bacio alla famiglia di Altero Matteoli. Questo e ci mancherebbe altro. Perché è una persona cara a tutti, a me in particolare, e quindi siamo rimasti tutti sconvolti da quello che è accaduto ieri. Ecco, detto questo, era doveroso da parte mia. Allora, sono rimasto, sì, molto stupito, perché parlando con la Mussolini ieri, io ero rimasto incuriosito positivamente dalla sua esperienza di aprire a Roma una rosticceria, sì, sì, tradizionale con le specialità napoletane, una pizzeria, sì, sì. Crocchetteria, non so come definirla, c'erano anche le pizzelle napoletane, e ho scoperto, incredibilmente, siamo qui per dare una notizia, che questo negozio ha chiuso. Come succede a tanti commercianti, a tanti piccoli imprenditori che rischiano anche con il proprio iniziale capitale di aprire un'attività, ma poi con l'affitto, perché i proprietari non intendevano abbassare un affitto esorbitante, perché non stavamo a Piazza Navona, e un locale di 40 metri quadri che si scendevano dei gradini, trattasse e tutto quello che si paga, non è che la pizza fritta la puoi far pagare 10 euro, costa 4 euro e mezzo, ma 3 euro. Le volevano addirittura quindi chiedere un aumento del canone. Aumento del 20%. E certo, un aumento, e quindi noi siamo stati costretti, perché forse loro pensavano, ecco, c'è la Mussolini, eccetera, però da quello che sento anche con altri commercianti, il grande problema è questo: chiudono per l'affitto, e adesso ho visto che questo locale è in vendita, quindi hanno capito che con quell'affitto non avrebbero mai potuto riaffittare, ma la conseguenza è che abbiamo chiuso anche un presidio, se vogliamo, in quella zona, perché la gente era abituata, era illuminata. Vicino Piazza Fiume. Vicino Piazza Bologna, vicino Piazza Bologna, ecco. Interna era illuminata la sera, si dava lavoro al banchista, a quello che faceva le pizze con tanto di contributi, eccetera. Ecco, la tre dipendenti, chiuso, vero? Avevamo due dipendenti più quelli che facevano le consegne a domicilio, tante persone, anche anziane, c'era una comodità, questa è la conseguenza. Ma quindi l'esperienza, scusi, demordo, da esercente, prima del non demordo, l'esperienza esercente è che con 1.800 euro, 2.000 euro è difficile tenere aperta la sala cinesca. Erano un affitto di 1.600 euro di 40 metri quadri in locale, con il fatto che si devono pagare anche i dipendenti, questo certo. È chiaro, giustamente, tutto quanto, quindi un contratto che costa 1.600 arrivi a pagarlo 2.100, conseguentemente si chiude se non ci sono altre possibilità. Però non demorde, diceva. No, io non demordo, perché è un'esperienza importante, sto facendo una ricerca per trovare dei locali adatti, sempre piccoli, perché io credo che questo ti dà anche il contatto con la gente. Esatto, sono molto d'accordo con quello che dice l'onorevole Muzzoni, molto d'accordo. Le abitudini, però, quando poi lo fai in prima persona, appunto, ti rendi conto delle tante difficoltà, esatto, che vivono i commercianti. Ma quello che dico è che, chiamiamolo il sindacato, diciamo la Confesercenti, su questo non ha una visione unitaria, e quindi purtroppo, cioè, non è che apre ad un mercato e dà tutele, no, diciamo che tutela i vecchi ma non consente di aprire ai nuovi. Poi mettiamoci la Raggi, che per le canne fumarie, giusto le canne di prima mattina, sta facendo l'ira battutaccia. Di Dio, perché devono dare indicazioni chiare sulle regole per chi apre e ha una licenza di somministrazione, quindi è molto complicato. Grazie ad Alessandra, una testimonianza. Grazie, importante, Luca, anticasta. Resistere e riaprire in questo caso. Però vedi, io penso che appunto l'uomo politico, la donna politica in questo caso, di vita pubblica, che dice imparo a gestire una piccola... No, ma è proprio così, perché molti di loro, secondo me, finiscono per legiferare di cose di cui non hanno alcuna nozione diretta. Proprio che cos'è una piccola impresa, quanti sono gli oneri, quanto gravano i costi impropri e così via. Buongiorno Alessandra, buon lavoro. Allora ricordatevi, se volete intervenire su questo, c'è un messaggio molto interessante, Oscar, sulla vicenda di cui abbiamo parlato. Naturalmente la pizza era la pizza tricolore, quella. Pizza tricolore, pizza napoletana. Vabbè. No, dicevo, la vicenda del passaporto sud tirolese. Sì. E c'è un messaggio che secondo me riassume bene il pensiero di molti. Dico, allora via l'autonomia che è stata pagata con i soldi dei Lombardi e dei Veneti se vogliono il passaporto. Mi sembra brutale, però... Però vedete, attenzione. È meraviglioso, io dico, benissimo. Io dico anche che è superata storicamente. Le vecchie autonomie speciali del 47 sono superate. Bisognerebbe riragionare sul federalismo di tutti. Detto questo, attenzione, perché la mossa austriaca è volta esattamente a determinare questo tipo di reazioni, come ha ricordato Fassino, perché lo abbiamo già visto, tutti i paesi del blocco di Visegrad nascono intorno a governi con partiti che iniziano a lanciare questi messaggi perché ne fanno una finalità precipua, cioè quella di tornare a un'Europa di scontri nazionali e di identificazione di comunità subnazionali anche. Allora, io credo in un federalismo in Europa e regione diverso, l'abbiamo parlato molte volte, la Catalogna che si avvia a un triste voto, Luca, di cui non si occupa quasi nessuno il 21 dopodomani, e però è cosa diversa da tornare allo scontro etnico nazionale, ecco, è proprio una diversità radicale. Quindi tu voli alto, Oscar, io ti do io una notiziola: il 28% degli italiani si informa per le cure mediche su internet e va male, 8 milioni di persone che andate dal medico di base, il famoso dottor Google. Dottor Google.